Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati al nostro settimanale appuntamento con i periodici in edicola. Come prima cosa, oggi vorrei farvi una domanda. Sapete dov'è la Rutenia? Io devo confessarvi apertamente che non ne avevo idea, ma ho scoperto leggendo l'Economist che la Rutenia è stata per un giorno una nazione indipendente, per un giorno soltanto. Il giorno, per la precisione, cadeva nel 1930. 39, quindi 70 anni fa, era il 15 marzo e con lo scoppio della vigilia dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, nella mattina si dichiarò indipendente dopo che appunto i nazisti avevano cominciato lo smembramento della Cecoslovacchia, e però subito la sera stessa fu invasa dalla vicina Ungheria. Questo vi aiuta anche a capire più o meno dove si trovi questa Rutenia. È un territorio che sta appunto tra l'attuale Slovacchia, l'Ungheria, la Romania e l'Ucraina verso est. Cioè, dalla cartina che riporta l'Economist sembra esserci anche un minuscolo confine con la Polonia nella parte settentrionale. Perché oggi si parla della Rutenia? Perché la Rutenia, che appunto non è mai stata una nazione indipendente se non per quel 15 marzo del 1939, e poi è finita naturalmente assorbita nell'orbita sovietica per gli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, la Rutenia è anche un territorio in cui passano due dei più importanti gasdotti europei. Allora, questo fa sì che il territorio abbia un suo valore strategico, come appunto segnala l'Economist di questa settimana. Un'altra cosa che non sapevo a proposito della Rutenia è che Andy Warhol era ruteno, spero si dica così. L'artista pop, in realtà non parlava la lingua originaria della Rutenia, però i suoi genitori lo facevano. Lui stesso diceva di sé, ricorda l'Economist, vengo dal nulla, da un posto, da nessun posto, e ci sono molti attivisti della Rutenia che si sentono un po' in questo modo, è il commento dell'Economist. Vedremo se il fatto di essere ora diventata un territorio strategico può dare in qualche modo nuovo alimento alle volontà di indipendenza che sono durate così poco, ripeto, proprio 70 anni fa, il 15 di marzo. Allora, risolto questo dubbio geografico sulla Rutenia che ci viene segnalata dall'Economist, veniamo invece a Il è il maschile del Sole 24 Ore, che trovate da ieri in edicola in vendita con il quotidiano. Da questo numero Il maschile presenta un report, una serie di pagine intitolato Green Report, cioè rapporto verde. Sono state riunite in queste pagine un po' molte delle cose che si trovano su tutti i periodici e che hanno una valenza, un legame ambientale, un legame con la nuova tendenza economica ed ecologica che viene considerata anche, ad esempio, dal Presidente degli Stati Uniti Obama come ricetta per uscire dalla crisi. Trovate diverse segnalazioni in queste pagine di Il che è in edicola da ieri. Io vi segnalo solo qualche cosa, ad esempio una divertente segnalazione di Alessandro Giberti da Londra, che ci parla di orti sulle terrazze delle grandi città. In questo caso la zucca sul tetto, crisi più nuova sensibilità, dice il sommario di questo articolo, uguale agricoltura urbana. E si spiega che a Manhattan la crisi economica, ma anche l'aspirazione alla salute e a comportamenti responsabili, stanno trasformando gli angusti spazi urbani in veri e propri mini orti sospesi tra le mille nubi di New York. Si calcola che in questo momento ci siano circa 600 mini orti sulle terrazze di Manhattan e vi crescono tutte, ma proprio tutte le verdure immaginabili. Questa è una delle segnalazioni che vengono da queste pagine di Green Report. Un'altra che ho trovato molto interessante è una doppia pagina dedicata alla bicicletta, perché forse è sorprendente saperlo, è sorprendente vederlo, ma ci sono in circolazione nel mondo molte più biciclette che automobili. Sono oltre 130 milioni le biciclette prodotte nel 2007, vuol dire più del doppio dei 52 milioni di automobili che in quello stesso anno 2007 sono state immesse sul mercato. Tra l'altro c'è stato il grafico che si presenta su Il, lo segnala molto bene, un vero e proprio boom dal 2004. Un boom che, spiega Francesco Franchi, è in parte dovuto alla crescente domanda di bici elettriche. Il servizio è completato poi dalla densità di biciclette nel mondo, con la segnalazione di alcuni paesi. In Francia se ne calcolano 1.100.000, in Italia 2.500.000 e naturalmente in Cina, ma questo forse era un dato che potevamo immaginare, la maggioranza del globo intero con 87 milioni. Quindi i cinesi sono primatisti nell'utilizzo della bicicletta, non sono ancora così forti compratori di automobili da poter invertire questa tendenza che vede sempre in vantaggio le due ruote. E c'è un aspetto che mi ha incuriosito invece sul magazine del Corriere della Sera. Lo segnala l'Elzeviro di Marco Pratellesi e si tratta degli effetti possibili, per carità, della crisi sul nostro modo di usare la punteggiatura. La segnalazione, correttamente Pratellesi lo dice, non è originale, ma viene da un articolo del Financial Times, da Lucy Callaway, columnist del Financial Times, che nella sua rubrica ha salutato il ritorno della punteggiatura nelle email e il tramonto delle abbreviazioni stile SMS. Si domanda Pratellesi, ma la crisi economica quindi influenza il nostro modo di interagire con gli altri? È possibile che in tempi di recessione uno stile più formale prevalga anche nel nostro modo di scrivere? Beh, qualcosa sembra essere cambiato se diamo retta a questa segnalazione del Financial Times. Nella valanga di mail, sembra concordare Pratellesi, che riceviamo negli ultimi tempi, è ricomparsa la punteggiatura. Punti, virgole, punti e virgola hanno ripreso il posto che compete loro. Anche i confidenziali ciao, hola e gli attacchi senza nessun tipo di saluto diventano sempre più rari. Quindi sembrerebbe che la recessione abbia spazzato via lo stile informale nato al tempo della New Economy. Lucy Callaway, appunto, sul Financial Times non ha dubbi. Quando la gente rischia di perdere il lavoro, un abbigliamento appropriato e un uso corretto del linguaggio appaiono come una buona forma di assicurazione. E anche in questo caso sembra esserci un legame allora tra le maggiori difficoltà vere o temute e come ci esprimiamo, come ci relazioniamo con gli altri, anche nel spazio di una mail. Cambiamo decisamente argomento con il venerdì che avete trovato ieri in edicola insieme a Repubblica. Il venerdì ha una copertina dedicata alla paura di leggere. Che cosa significa? Dice: gli italiani non sono grandi lettori, ma nelle classifiche giallo e nero, da Larson alla Meyer, spopolano. Mentre esce il nuovo thriller della francese Fred Vargas, che è un bestseller annunciato, il venerdì fa questo viaggio in un genere che fu di serie B e dove sono le donne, le autrici, appunto, a dare più brividi. Il servizio è di Piero Colaprico, è un servizio in cui si fa anche tutta una serie di sfumature. C'è un altro lavoro di Beppe Sebaste che racconta appunto del nuovo libro in uscita da parte di Fred Vargas, la scrittrice francese che usa questo pseudonimo maschile, ma quello che vi vorrei segnalare è un'anticipazione che riguarda Stieg Larsson. Non so quanti di voi abbiano potuto leggere questi volumi un po' impegnativi, diciamo, come numero di pagine, di Stieg Larsson, scrittore svedese scomparso molto giovane, che però ha al suo attivo una trilogia cosiddetta, la trilogia di Millennium. Questi gialli, che sono stati un successo di dimensioni mondiali, potrebbero avere una quarta puntata. Dice infatti Eva al venerdì, Eva che era stata la compagna di Stieg Larsson: ho io la quarta puntata di Millennium. Ci sono 200 pagine, si spiega. Si chiede anche a Eva qual è il contenuto di queste 200 pagine. Mi spiace, non posso risponderle, me ne scuso con i lettori di Millennium. Quindi c'è in giro una possibile quarta puntata, molto più breve devo dire delle prime tre, della trilogia di Millennium di Mikael Blomqvist, ma dipende appunto dalla compagna di Stieg Larsson sulla sua diffusione o meno. Magazine 24. Bentornati con il nostro appuntamento tra i settimanali periodici in edicola. Stavamo parlando di Stieg Larsson, stavamo parlando di gialli, di noir che hanno un notevole successo tra i lettori italiani, tra noi lettori italiani, che per quanto insomma noi italiani non siamo notoriamente un popolo di grandi lettori. Queste vicende di gialli, di noir, di insomma vicende un po' paurose in qualche modo, mi hanno fatto ricordare una cosa che sta su Focus di questo mese. Ne abbiamo parlato già di Focus, che è in edicola in questo mese, ed è dedicata questo servizio alle creature dell'uomo. Di cosa si tratta? Viene spiegato dal sommario: dal mostro di Frankenstein agli androidi della fantascienza, l'uomo ha sempre sognato di plasmare esseri viventi temendo di non controllarli più, proprio come accadde al dio della Bibbia. E in questo servizio dedicato ai mostri si segnalano alcuni punti chiave. Dice: molti miti di ogni epoca raccontano di uomini capaci di creare esseri viventi usando materiali inerti. Le leggende sono un'interpretazione magica della Bibbia, perché si dice infatti nella Bibbia: Dio creò Adamo da una massa informe, la massa informe che viene chiamata Golem e che ha anche un certo successo nelle letterature, nelle leggende, come vedremo tra un attimo. Frankenstein e il Golem hanno reso popolare il mito, che rispecchia anche la paura verso il potere della tecnologia. Questa è la precisazione che viene da Focus. Si legge che l'antica tradizione ebraica del golem, di questo mostro che viene creato e animato e poi spesso non si riesce più a controllare, viene appunto dalla Bibbia stessa, precisamente nel Salmo 139, dove golem significa embrione, massa informe, quella usata da Dio per plasmare Adamo, il primo uomo. Ma in che modo? Secondo il libro della creazione, un testo esoterico della Kabbalah, per creare il mondo Dio usò le 22 lettere dell'alfabeto ebraico e ne svelò la formula ad Abramo. Perciò qualunque sapiente avrebbe potuto dar vita a una creatura se conosceva una determinata formula magica. Questa idea ebbe fortuna. Il Talmud narra la storia del rabbino Rava, che creò un uomo artificiale per mezzo di pratiche magiche. Fino al Medioevo però segnalano queste creature non immagini per lo più etere, che venivano ottenute con l'energia mentale dei sacerdoti. Il mito del golem vero e proprio, come forse avete sentito, è più un mito dell'Europa centrale. Il golem è in questa tradizione dell'Europa centrale una creatura di argilla, una creatura forte e ubbidiente, che si può attivare scrivendogli sulla fronte Emet, che significa verità, e cancellandogli la prima lettera. Da Emet si passa a Met, che significa morte, e quindi il golem viene in qualche modo spento. Ci sono leggende particolarmente cruente che sono fiorite appunto nell'Europa centrale. Qui se ne riferisce una della Polonia del 600, e ancora oggi all'ingresso del centro turistico ebraico a Praga c'è un golem di plastica, un golem in realtà dall'aspetto molto bonario, che però riprende proprio questo tipo di tradizioni centroeuropee. Allora, visto che il discorso si fa un pochino sulle questioni ultime, con queste paure anche di grande calibro, vi voglio segnalare una cosa che ho trovato su Newsweek. Su Newsweek ci si interroga sulla quello che noi chiamiamo il business del caro estinto, cioè la pratica delle agenzie dei servizi funebri, che appunto in questa fase di recessione, specialmente americana, hanno un problema di costi da proporre ai clienti che non sono, come notoriamente si sa, ed è anche un esempio citato sempre nelle questioni economiche, non sono soggetti ad alcun tipo di recessione, perché ohimè il numero delle persone che ci lasciano è più o meno sempre costante, e così è anche costante l'andamento degli affari per chi si occupa di questi servizi. Però si riferisce in questo articolo di Matthew Phillips che c'è una maggiore attenzione verso le opzioni, le scelte più a basso prezzo, opzioni che adesso è di moda chiamare low cost. Quindi stiamo, spiega, riferisce un impresario, stiamo un po' adeguando la nostra offerta. In realtà un grafico che viene riportato appunto in questo numero di Newsweek segnala che i costi sono molto cresciuti in America per questo tipo di servizi, arrivando fino ai $7,000 in media nel 2008 e stavano più o meno a 5,000 nel 2002, quindi c'è stata una forte salita dei costi. E in altra parte del servizio altri impresari di pompe funebri dicono: beh, in realtà non vediamo che le famiglie magari possono essere diventate un po' più attente a quanto spendono, però il fatto è che non ci sono grandi cambiamenti, grandi mutamenti che possiamo notare in questo tipo di business, in questo tipo di richiesta da parte delle famiglie. Un argomento curioso, ma che in tempi di crisi ci potesse essere una sorta di difficoltà ad adeguare l'offerta anche per questo tipo di servizi, mi sembrava carino segnalarlo. Per alleggerire un attimo, riprenderei la stessa questione, ma da tutt'altra vicenda, e questa volta un po' più leggera, perché sull'Economist di questa settimana si parla degli stati americani che stanno abbandonando la pena di morte. Perché? Non per un motivo umanitario, ma questa volta per motivi di risparmio. Quindi c'è una necessità da parte delle amministrazioni di rinunciare. Ci sono stati degli studi in America, riferiscono da New York sull'Economist, che dicono che più o meno gestire la pena di morte, un condannato a morte, è sempre più costoso che tenere qualcuno in prigione per tutta la vita, per condannarlo all'ergastolo, perché bisogna tenere conto del processo, che è comunque sempre molto complicato, dei ricorsi che vengono presentati dagli avvocati, dagli appelli e spesso dalle varie obiezioni che vengono mosse per evitare appunto la pena capitale. Questo può impegnare fino a un decennio e naturalmente rappresenta un costo per lo Stato, si spiega. E poi c'è naturalmente il mantenimento di queste persone che sono in attesa di conoscere il loro destino. Allora, in un periodo di austerità qual è questo, anche ogni singolo milione di dollari conta, e quindi ci sono i proponenti dell'abolizione della pena di morte che hanno descritto la pena di morte come un programma troppo costoso con pochi benefici. Infatti c'è una evidenza molto molto blanda sulla capacità di deterrenza della pena di morte. Gli stati che ne fanno maggiore uso sono il Texas e l'Oklahoma, ma in realtà hanno tassi di criminalità più alti che altri stati che non prevedono la pena di morte, quindi la deterrenza possibile sarebbe in realtà molto molto blanda. E poi c'è anche il pericolo naturalmente di infliggere una pena senza possibilità di rimedio a una persona innocente, una persona che non c'entra. Il Colorado è uno degli stati che sta pensando a modificare la sua politica, quindi ad abolire la pena di morte, e con i soldi risparmiati da parte dell'amministrazione statale investire invece più fortemente sulla prevenzione e sull'attività investigativa della polizia. Dovrebbe liberarsi in questo modo in Colorado più o meno $1,000,000 di spese federali, di spese statali. Allo stesso modo ci sono delle pressioni per l'abolizione nel Kansas e si stima che si risparmierebbero almeno $500,000 per passare, diciamo, dall'applicazione alla pena di morte invece a un'applicazione dell'ergastolo. Risolleverei un attimo il tono per evitare, insomma, argomenti un po' tristi, stando sempre sull'Economist, con una ricerca abbastanza divertente che viene dal Brasile. La domanda di questa ricerca, che è stata svolta appunto e presentata in Brasile nel gennaio di quest'anno, è se le soap opera, che in Brasile hanno un successo notevolissimo, ancora più che da noi che in Europa, abbiano in qualche modo influenzato i comportamenti delle donne. Beh, la risposta pare essere sì, perché siccome nelle soap opera si vedono famiglie di solito più piccole e che divorziano più spesso che non nella realtà, famiglie con meno figli, beh, anche il comportamento delle donne brasiliane sarebbe stato influenzato da questo modello che viene proposto dagli anni 60 nelle soap opera, e ci sarebbe stato una minima attribuzione di responsabilità in qualche modo alle soap opera. Non hanno solo responsabilità nella rovina delle famiglie, però nello sfasciarsi delle famiglie, ma anche a ridurre la violenza domestica. Questo riconoscono i ricercatori e questo riferisce l'Economist. Così il tempo a nostra disposizione per oggi si è concluso. Io ringrazio Giacomo Spunta per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande che mi hanno aiutato nel preparare questo programma. Vi do appuntamento a lunedì alle 7:30 per la rassegna stampa dei quotidiani, che settimana prossima sarà affidata proprio a me. Buona giornata e buona domenica a tutti.